Palazzo Poggi è stato costruito tra il 1549 e il 1560 come abitazione per Alessandro Poggi e per il fratello, il cardinale Giovanni Poggi. Chi sia stato l'autore del progetto è ancora oggetto di dibattito. Alcuni studiosi lo attribuiscono a Pellegrino Tibaldi, autore degli affreschi che abbelliscono le pareti e i soffitti del piano nobile, altri a Bartolomeo Triachini, altri ancora a Galeazzo Alessi. Lo ricorderete per la Fontana Vecchia e il portale di Palazzo d'Accursio. Scrisse Alessio Nobili nel 1820. Nelle Vite degli Architetti, edizione Roma 1768, alla pagina 260, si dice l'Alessi autore della porta del Palazzo Pubblico, di vari disegni per la facciata di San Petronio e che compisse il Palazzo Poggi, ora dell'Università, sui disegni di Pellegrino Tibaldi. Ma il manoscritto Lamo poi avvisa che l'interno del Palazzo Poggi suddetto fu architettato dal Triachini. Risalgono al 1711 le Costituzioni, i documenti con cui si sanciva la nascita dell'Istituto delle Scienze, del quale fu illuminato promotore il cardinale Prospero Lambertini, di cui avremo modo di parlare più avanti. Il Lambertini appoggiò il progetto ideato dal generale Luigi Ferdinando Marsili di convertire l'antica mensa accolta e ospitale dei Poggi in una sorta di enciclopedia del sapere scientifico dell'epoca. Naturalmente si resero necessari alcuni interventi di consolidamento della struttura, tra i quali la costruzione di un osservatorio astronomico, la specola, e l'aggiunta di un'ala dell'edificio da destinare alla biblioteca. Al piano nobile vennero collocati i laboratori dove gli scienziati del tempo potevano eseguire esperimenti e osservazioni dei fenomeni naturali. L'Istituto delle Scienze di Palazzo Poggi divenne quindi un centro all'avanguardia, non solo di discussione come avveniva nella maggior parte delle altre accademie scientifiche, ma una sede dove sperimentare le scienze. Lo stesso fondatore, Luigi Ferdinando Marsili, operò in queste stanze dal 1711 fino alla sua morte. Quei laboratori sono oggi sede di un affascinante museo dove si può ammirare parte della collezione di diversità di cose naturali raccolta da Ulisse Aldrovandi. Considerato il fondatore della storia naturale moderna, Aldrovandi aveva raccolto nei 13 volumi della sua Storia naturale la più esaustiva descrizione dei tre regni della natura, minerale, vegetale, animale, esistente alla sua epoca, che ricordiamo era la seconda metà del Cinquecento. Nella stanza in cui gli scienziati dell'Istituto di Scienze eseguirono i primi esperimenti sulla scomposizione della luce, appoggiandosi alle nascenti teorie newtoniane, è stata oggi effettuata una ricostruzione scenografica degli stessi strumenti adoperati a tale scopo da Francesco Maria Zanotti e il suo allievo Francesco Algarotti nella seconda decade del Settecento. Non può mancare una visita alla stanza dedicata all'elettricità, all'interno della quale è possibile ammirare, tra gli altri strumenti, una macchina elettrica a globo con sfera di vetro settecentesca, azionabile mediante una cinghia. Palazzo Poggi, nel Settecento, è stato anche sede di un innovativo corso di chirurgia, voluto da Giovanni Antonio Galli. Qui venne applicato per la prima volta un metodo scientifico al parto, fino ad allora riservato alle levatrici. Galli fece creare una serie di modelli di utero in argilla e strumenti definiti macchine da parto per simulare l'andamento della gestazione, ancora oggi visibili all'interno delle teche dell'aula di ostetricia. Grazie a Galli, questo insegnamento diventava disciplina medico-chirurgica a tutti gli effetti e oggetto di specializzazione. Ma una delle sale più suggestive del palazzo è senza dubbio la Camera dell'Anatomia, istituita nel 1747 sotto la guida di Ercole Lelli. Particolarmente interessante il fatto che Lelli non era uno scienziato o un medico, ma direttore di figura dell'Accademia Clementina di Belle Arti. Si devono a lui le 8 statue a grandezza naturale, tra le quali 2 nudi, uno maschile e uno femminile, chiamati convenzionalmente Adamo ed Eva, e 6 uomini scorticati a mostrare la progressione degli strati muscolari, da quelli più superficiali fino allo scheletro. Per realizzare le statue, Ercole Lelli si avvalse di una tecnica all'avanguardia nell'ambito della ceroplastica. Per prima cosa provvedeva a procurare le parti anatomiche da riprodurre. Si parla quindi di autentici organi umani. Dopo un disegno preliminare, realizzava le riproduzioni tramite cera diluita con trementina e acquaragia, impastata con mastice e sego. Le parti in cera venivano poi applicate su autentiche ossa, appartenenti a scheletri umani. Nel caso delle figure intere veniva costruita anche un'armatura in ferro per sostenerle. Fu il suo assistente, Giovanni Manzolini, a proseguire l'opera di Ercole Lelli presso la Camera dell'Anatomia. Sua preziosa collaboratrice fu in questo caso sua moglie, Anna Morandi, che già aveva lavorato con Giovanni Antonio Galli per le tavole in cera dell'aula di ostetricia. I coniugi Morandi-Manzolini si specializzarono nella riproduzione degli apparati sensoriali umani, come l'udito, la vista, il tatto e degli organi riproduttivi, portando l'uso della ceroplastica nell'ambito medico a nuovi standard di eccellenza. Si può dire senza timore di essere smentiti che Bologna nel Settecento era assolutamente all'avanguardia nella ceroplastica medica. Grazie ai resoconti dettagliati lasciati da Anna Morandi sotto forma di manoscritto, conosciamo approfonditamente le tecniche utilizzate per la riproduzione degli apparati. Particolarmente interessanti sono anche le annotazioni scientifiche lasciate dall'autrice a margine dei manoscritti. La vita dei due coniugi, tuttavia, al di là dei grandi successi professionali, non fu facile. Giovanni Manzolini si ammalò di depressione. Sempre più affliggendosi il marito, e quali negletto nella tanto strepitosa operazione della camera anatomica, altro conforto non riceveva nei suoi frequenti lamenti che dalla saggia e pia consorte. E poi contrasse la tubercolosi, che lo portò prematuramente alla morte. Anna ottenne dal Senato bolognese un permesso speciale per insegnare in sua vece. Nel 1756 diventò membro dell'Istituto delle Scienze a tutti gli effetti, ricevendo la nomina a modellatrice in cera con uno stipendio annuo di 300 lire. Ciò nonostante, per tutta la vita fu afflitta da difficoltà economiche, al punto che dovette vendere la sua intera collezione di ceroplastiche e tutti i suoi strumenti al senatore Girolamo Ranuzzi. Costui le offrì comunque la possibilità di abitare in un appartamento a Palazzo Ranuzzi e di continuare lì a lavorare. Anna Morandi raggiunse un livello di notorietà ben superiore a quello mai raggiunto dal marito, diventando anche affiliata alla Società Letteraria di Foligno e all'Accademia di Disegno di Firenze. I suoi meriti la fecero conoscere in tutta Europa, al punto che nel 1769 ricevette nel suo studio una visita dell'imperatore Giuseppe II d'Austria. Ma torniamo ai capolavori conservati all'interno di Palazzo Poggi. Tra le statue in cera ce n'è una dallo straordinario potere di suggestione. Si tratta della Venerina bolognese, una replica della Venere dei Medici, realizzata da Clemente Susini tra il 1780 e il 1782. Si tratta di una giovane donna, completamente nuda, rappresentata in uno stato di abbandono nei confronti della morte, in una posa estatica di grande armonia, quasi sensuale. La particolarità di questa statua di cera è la possibilità che offre di smontare addome e torace, con la finalità di simulare la dissezione anatomica. Oltre che uno straordinario strumento didattico, questo capolavoro costituisce senza dubbio un'affermazione da parte dell'artista del primato del sublime sul bello, un concetto che si era andato consolidando nel corso del Settecento come anticipazione del periodo del Romanticismo. È nel trattato Indagine sull'origine delle nostre idee di sublime e bello che nel 1757 il filosofo Edmund Burke sostenne il concetto per cui è sublime tutto ciò che può destare idee di dolore e di pericolo, ossia tutto ciò che è in certo senso terribile o che riguarda oggetti terribili o che agisce in modo analogo al terrore, definendolo l'orrendo che affascina. Da Galvani a Mary Shelley.